Sezione 10 di Ode Barbare di Giuseppe Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Monica M.C. La Torre di Narone da August von Platen. Uden. Narra la fama, e ancor narra orrore il popolo. Nerone, indetto alla città l'incendio, salì su quella torre allo spettacolo del rogo, allegro ed avido. Coriano al cenno sol gli incendiari, pacanti in festa, e roteavan picei e serti di fiamma. Dritto somiglia o re, nero tocca la cetera. Gloria egli canta al fuoco, allora è simile, degno del titan che al cielo tolselo. L'augel di Giove il porta, ed il primo alito egli accolse di promio. Vieni, splendido nume, al crine i pampini. Moldanza sul mondo anzi che in polvere torni, di Roma che raccoglie il cenere, e nel tuo vino mescilo. Fine della sezione 10.